Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra Rassegna Stampa Europea. Come avrete sicuramente sentito in questi giorni, in questa settimana, si è un po' intensificato il dibattito sulle conseguenze della Brexit, anche se, ricordiamo, la Premier Theresa May ha detto che comunque si comincerà a parlarne di negoziati, quindi di effetti pratici nel 2017, però c'è stato molto discutere sulle conseguenze, per esempio per tutti gli studenti dell'Unione Europea che studiano, stanno per iscriversi, sono già iscritti, devono rinnovare l'iscrizione alle varie istituzioni scolastiche, soprattutto universitarie britanniche. Quindi il tema, benché il referendum risalga ormai al 23 di giugno e, come abbiamo detto, gli accordi prossimi verranno firmati nel prossimo anno, il tema è ancora molto di attualità. E allora vi segnalo dal sito voxeurope.eu, che sapete è uno dei miei preferiti, poi fa un po' il nostro stesso lavoro di monitoraggio di quello che si dice sulla stampa europea e non solo dell'Unione Europea, ha fatto un po' un riassunto di quello che forse il referendum nel Regno Unito dovrebbe insegnare all'Unione Europea per rafforzarla. Molto divertente anche la vignetta, perché sono tante stelle, sembrano appese, visto che poi si sta avvicinando a grandi passi la stagione natalizia, sembra quasi un quadretto idilliaco con queste stelle appese. In realtà la più grande, sapete che le stelle sono il simbolo, appaiono anche sulla bandiera dell'Unione Europea, queste stelle gialle su sfondo blu, la più grande di queste stelle ha in mano una forbice e taglia da sola il filo che la tiene appesa, quindi un po' si intuisce che c'è anche questo grande sentimento che si sta diffondendo nel Regno Unito, non soltanto in Inghilterra, di pentimento per quello che è successo nella Brexit. E tra l'altro i dati, ricorda anche questo articolo di chi dalla Gran Bretagna sta chiedendo la cittadinanza irlandese vera e propria, e quindi insomma i pentiti sono sicuramente molti, o chi ha paura, forse fin troppa, delle conseguenze appunto di questo referendum. Ma vediamo allora queste tre lezioni che secondo Vox Europe vanno tratte e che potrebbero anche rafforzare l'Unione Europea. Prima lezione: l'Unione Europea è diventata il capro espiatorio per le politiche sull'immigrazione. Verissimo, anche da noi si dice sempre è colpa dell'Europa, l'Europa non fa abbastanza. Oddio, nel caso dell'Italia in un certo senso è anche vero, in quello di tantissimi altri paesi sicuramente no. Seconda lezione: la Brexit è il segnale che l'Unione Europea non seduce più, e questo probabilmente è abbastanza vero, soprattutto non tra i giovani che magari sono ancora dei sognatori e vedono questa, solo la parola Unione Europea, come ancora un bel progetto, ma sicuramente, come hanno dimostrato le valutazioni demografiche sul voto per la Brexit, chi invece è di altre generazioni è profondamente deluso e quindi tutt'altro che sedotto. Terza lezione: la Brexit è un'opportunità per la difesa europea, e qui torniamo al tema che abbiamo dibattuto anche altre volte, dell'appunto della Costituzione, una cosa di cui si parla da tantissimi anni, di un esercito europeo o di una forza di pace simile, mettiamo, ai caschi blu dell'ONU, che però abbia proprio una divisa dell'Unione Europea. Sempre sul referendum ho trovato molto interessante un commento del Guardian, questa volta lo trovate su Internazionale, che si intitola La trappola dei referendum, e non si parla soltanto del referendum sulla Brexit, ma anche di quello che si è tenuto in Colombia, che sicuramente non è Europa, però ha fatto molto effetto, perché ai cittadini colombiani è stato chiesto di sottoscrivere o respingere l'accordo di pace che sanciva la pace tra lo Stato colombiano e le FARC, sanciva la fine di una guerra durata più di 40 anni con una percentuale scarsissima. Questo referendum ha rigettato l'accordo. Si continuerà a lavorare, anche perché nel frattempo il presidente colombiano ha ricevuto il premio Nobel per la pace, però sicuramente è un segnale. E l'altro referendum di cui parla il Guardian è naturalmente quello che si è tenuto in Ungheria, di cui anche abbiamo parlato, proprio sull'immigrazione, sulle politiche dell'immigrazione. Sappiamo che non è stato raggiunto il quorum, sappiamo che comunque era un referendum solo consultivo, ma qui appunto la trappola dei referendum, a che cosa servono davvero e soprattutto come vanno maneggiati prima e dopo. Sempre dall'Internazionale vi segnalo un altro grande europeo, quindi anche il commento a quello che è successo, questa nomina, abbiamo detto, questa è stata l'ultima settimana dei premi Nobel, e invece qualche giorno prima dell'ultimo premio Nobel assegnato, quello per la letteratura, è inutile che vi dica che i giornali europei sono veramente, hanno dedicato tantissime pagine a partire da venerdì, ma anche oggi ancora, alla morte di Dario Fo, oltre che alla vittoria di Bob Dylan, del premio Nobel per la letteratura, ma appunto è inutile, li avrete visti sicuramente. Vi volevo concentrare invece su un articolo apparso su Observador, che è un quotidiano del Portogallo, su Antonio Guterres, che è il nuovo segretario generale delle Nazioni Unite ed è appunto un portoghese. Vi leggo la prima parte. La prima prova che attende Antonio Guterres alla guida delle Nazioni Unite sarà difendere l'autorevolezza conquistata durante il processo di selezione. L'ex primo ministro portoghese ha dimostrato di essere il candidato migliore e più preparato, ma all'ultimo momento è stata lanciata un'altra candidatura, quella della commissaria europea Kristalina Georgieva, nel tentativo di ostacolarlo. Questa manovra ha rivelato interessanti divisioni tra gli europei. Francia e Regno Unito si sono alleati per impedire la vittoria di Georgieva, che era sostenuta dalla Germania. La Commissione europea ha voluto giocare una partita che non era la sua, presentando informalmente Georgieva come la candidata di Bruxelles. Forse ha sopravvalutato l'influenza della Germania, ma è difficile capire perché non abbia appoggiato l'europeo che si trovava nella posizione migliore per essere eletto. E ahimè, come sempre quando si tratta di eleggere, di scegliere persone che hanno sicuramente un ruolo, oltre che prestigioso, potenzialmente molto importante nella geopolitica del mondo, si scopre poi che ci sono queste divisioni appunto in partitelli incorrenti, e succede, come vedete, a tutti i livelli e in tutti i paesi e in tutte le occasioni. Un'altra segnalazione che volevo farvi, anche per cambiare un po' argomento, ci riguarda invece direttamente, perché così come in Italia si discute molto del referendum costituzionale per il quale voteremo il 4 dicembre, questo non è un referendum consultivo, è un referendum che appunto chiede agli italiani di abrogare o invece rendere definitiva la riforma della Costituzione. La Süddeutsche Zeitung, tanto per citare uno dei giornali europei che sta seguendo la vicenda, si è concentrata sul conflitto interno del PD. La Süddeutsche Zeitung non è assolutamente un giornale di partito, però è un giornale che possiamo classificare come di centrosinistra, quindi anche un'attenzione magari particolare appunto a questo aspetto palese delle divisioni all'interno del Partito Democratico Italiano. E quindi scrive: il confronto all'interno del PD in vista del referendum è la palude che lui voleva prosciugare. Lui naturalmente è Matteo Renzi, e questo quotidiano che ha sede a Monaco di Baviera, quindi anche abbastanza vicino a noi, da qui anche il nome Süddeutsche Zeitung, il giornale del sud della Germania, scrive: questa palude è il sistema politico istituzionale che ha frenato fin qui la modernizzazione. Il referendum è, soprattutto nelle intenzioni di Renzi, un altro passo verso la modernizzazione. Però non si sa veramente a questo punto se chi vincerà, se il sì alla riforma fortemente voluta da Renzi o il no. La Süddeutsche Zeitung spiega anche che a seconda dei sondaggi le due posizioni si avvicinano, e però c'è un 40% di indecisi, e quindi naturalmente questi poco meno di 2 mesi che mancano saranno cruciali. Un altro giornale europeo, Le Monde, si occupa della stessa questione, con un lungo articolo uscito qualche giorno fa che parla del Presidente del Consiglio e di questa campagna per il referendum. I due sondaggi che cita Le Monde danno il no in vantaggio. In realtà sappiamo che un sondaggio di ieri poi dava il sì e il no appunto vicini alla parità, ma soprattutto sottolineava ancora una volta questa incognita degli indecisi. Non solo sono indecisi quelli che proprio non sanno ancora se voteranno sì o no, ma anche chi dichiara di aver deciso già di votare o sì o no, poi però dice che forse cambierà idea. Quindi particolarmente difficile il lavoro dei sondaggisti in questa occasione. Comunque scrive Le Monde, che spiega la riforma ai suoi lettori e osserva che il nuovo Senato immaginato dalla riforma sarebbe uno sconvolgimento in un paese storicamente diffidente nei confronti di tutti i poteri, e da qui tutte le perplessità che sono state sollevate dalle opposizioni, dal mondo sindacale e anche dai giuristi. Come sappiamo, ci sono costituzionalisti che hanno detto chiaramente di essere contrari a questo tipo di riforma costituzionale. Un'ultima segnalazione ve la faccio da Financial Times, che ogni anno, Financial Times fa tante classifiche, ma quest'anno ha fatto una classifica delle 72 studi di avvocati più innovativi al mondo, e ce n'è anche uno italiano, in particolare perché, e qui sta anche l'aggancio europeo, perché nel 2016 ha ottenuto un riconoscimento per la tutela all'interno di tutto il mercato dell'Unione Europea del formaggio prodotto a Cipro Nord. E può sembrare una cosa da poco, ma in realtà, siccome tutti sappiamo più o meno quanto complicate siano le norme europee, questa è una vittoria per gli avvocati di questo studio, che è appunto uno studio italiano. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.